Quando arriverà, la signora dei sogni arriverà, sopra il palco dei pegni con gli assegni, non si sa che chiederà, ma... Attenzione che sto per passare. Via la statale 49. Bisogna fare attenzione che piove. E qua mi posso bagnare, ma devo restare. E l'ho portato il mio vecchio bicchiere, quello da cui ho bevuto tutte le sere. Ma se mi chiede di portare la cosa che non le voglio dare, non mi dispiace, lei non l'avrà, cara madame. Lei non l'avrà, ma quando arriverà, la signora dei sogni arriverà, sopra il banco dei pegni con gli assegni, non si sa che chiederà, ma quando arriverà. Ed ho portato anche il mio vecchio parrucchino, non l'ho mai messo ma mi piaceva un casino. Ed ho portato anche le giarrettiere che avevo comprato a mia moglie ma non mi ha mai fatto vedere. E poi ho come un rubinetto scassato quello che non mi hanno mai aggiustato. Ma se mi chiede di Ma quando arriverà, quando arriverà, la signora dei sogni arriverà, sopra il banco dei pegni con gli assegni, non si sa che chiederà. Ho portato tre libri assieme al loro scaffale. Vino andato, buono per passeggiare. La conchiglia dove si sente il mare. Se mi chiede di portare, no, cara madame, lei non l'avrà. Quando arriverà, lo spero di sognare.